il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. I piselli, quando si dice Veneto, in realtà questo è uno dei prodotti che contraddistingue la nostra regione. Forse si è persa un po' la memoria, ma quando uno pensa ad un piatto tipico del Veneto, ad esempio, sì, si pensa al baccalà, si può pensare alla polenta, ma forse quello che, in cui più ci si può riconoscere sono i famosi risi e bisi, ovvero il risotto con i piselli. Dicevo che però è un frutto della terra un po' messo in secondo piano in questi ultimi anni rispetto ad altri. Si sente molto parlare di radicchio, si sente parlare di asparagi, di fagioli, però i piselli stanno avendo anche un ritorno. Siccome questa è la stagione dei piselli e siccome abbiamo scoperto che a Baone, ai piedi dei Colli Euganei, stanno dedicando una festa che sta crescendo molto in questi anni anche di importanza, abbiamo pensato di saperne qualcosa di più. Abbiamo con noi oggi Stefano Zambon, presidente dell'associazione Bisi e Bisi, che è l'associazione dei produttori di piselli dei Colli Euganei. Benvenuto, signor Stefano. Sì, buongiorno. Ecco, la prima cosa che le volevamo chiedere è perché proprio in questa zona dei Colli Euganei e perché proprio i piselli? Allora, in questa zona dei Colli Euganei perché parliamo di due comuni che sono a sud, per cui particolarmente vocati in questa zona, perché l'origine vulcanica di questi terreni, di queste colline, fanno dare un sapore in più e delle caratteristiche organolettiche ai nostri bisi che sanno dare in più rispetto ad altre zone. È una zona collinare di origine vulcanica, sì, per cui ripeto, la particolare esposizione a sud ci permette di creare un prodotto di primizia. Ecco, voi producete piselli, però non esiste, mi pare di aver capito, il vero biso, se si dice così, il pisello di Baone, cioè c'è più di una qualità che voi avete selezionato. Certo, mi ricollego a quanto stavo per dire nell'introduzione. Effettivamente, perché sono un po' spariti, sono un po' andati in secondo piano i piselli, noi amiamo chiamarli bisi, perché se c'è un prodotto che la grande distribuzione è riuscita a fare, bisogna dire effettivamente con realtà sono i piselli, per cui le piccole produzioni o comunque la coltivazione fatta dalle aziende agricole, le piccole aziende agricole in questi posti come anche in altri, purtroppo è stata sostituita da queste grandi produzioni e dalle grandi multinazionali che possono permettersi di fare un raccolto in grande scala, ma a noi vogliamo puntare, magari, ecco, cercando appunto di riscoprire, era la nostra intenzione, le varietà storiche che c'erano state ma che purtroppo non si trovano più in commercio. Abbiamo anche noi comunque sviluppato la coltivazione di queste coltivazioni cosiddette industriali, cioè coltivazioni di piselli di piccole dimensioni, sono veramente piccoli, ma che hanno caratteristiche eccezionali per quanto riguarda l'uso in cucina. Si tratta di semi a seme ruvido e non a seme liscio, che sanno dare una dolcezza particolare e sanno ottenere una dolcezza più degli altri. Ecco perché il successo in cucina di questa tipologia di semini. Ecco, per riconoscere la qualità e anche la bontà di un pisello, che cosa si guarda? Proprio la dolcezza in particolare oppure la succosità? Ecco, direi che la dolcezza comunque è sempre un fattore soggettivo, la dolcezza non equivale a bontà dei piselli, anche se comunque quando uno lo assaggia crudo, ed è bello assaggiarli crudi, la prima cosa che viene da dire è senti che dolce, però in cucina non è tutto la dolcezza. Ripeto, sono altre caratteristiche organolettiche che ci piacerebbe un giorno poter individuare meglio attraverso studi di ricerca che comunque cercheremo di fare. La bontà è unica, è anche impossibile quasi da spiegare, nel senso che invitiamo comunque tutti ad assaggiarli. La qualità sta nel fatto della tipologia di coltivazione che facciamo con tecniche a minor impatto ambientale, Parliamo di prodotto fresco, assolutamente fresco. Diciamo fresco che vuol dire quello... anche di stagione, quindi si trova in piccole quantità in questo periodo dell'anno, non è che lo si trova poi... No, ecco, esatto, il periodo è molto ristretto, parliamo circa di un mese, poco più di produzione, partiamo dal fine di aprile per tutto il mese di maggio, ecco, questo è poi il periodo, e dove termina e culmina con la festa che facciamo quest'anno dal 22 al 27 maggio, cioè domenica prossima. Ecco, allora fra poco torniamo in linea a parlare e parleremo anche della festa, per ora ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Us all, 'cause I believe in a world where we all belong, and I'm so tired of seeing every good man gone. Torniamo in linea con Blu Radio Veneto con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di un prodotto tipico del Veneto da valorizzare e riscoprire, che sono i piselli, ovvero i bisi. Lo stiamo facendo con Stefano Zambon, presidente dell'associazione Bisi e Bisi di Baone, nei Colli Uganei, in provincia di Padova. Si parlava delle particolarità dei piselli, in particolar modo di quelli che coltivate alle pendici dei Colli Uganei. C'è una produzione in crescita, nella vostra zona sono aumentati di molto i produttori in questo periodo? Sì, Sì, devo dire effettivamente da ormai da una decina d'anni che l'associazione si è costituita e di anno in anno abbiamo un aumento della coltivazione, dei soci e quindi delle coltivazioni. È un aumento che non è facile mantenere, cioè sviluppare più di tanto per vari motivi, lo devo citare, uno dei quali sono l'invasione dei cinghiali che ci stanno compromettendo i raccolti, soprattutto quelli collinari, quelli che stanno un po' nei pendii, perché lì vive purtroppo il cinghiale che sta devastando un po' tutto. Però lo sviluppo della coltura sta aumentando perché effettivamente attraverso la festa, attraverso la promozione, attraverso tutte le opere che stiamo facendo in questi anni, stiamo raccogliendo soddisfazioni dal punto di vista del mercato, soddisfazioni che soprattutto nel rapporto che abbiamo diretto con il consumatore, che è quello che noi ci teniamo particolarmente. Non puntiamo alla grande distribuzione, noi puntiamo a un rapporto diretto soprattutto con la ristorazione locale. Questa è una sinergia che teniamo da anni e ci sta dando veramente grandi soddisfazioni. Ecco, chi vuole assaggiare i vostri piselli, in effetti conviene che venga nei ristoranti della zona oppure alla festa che si terrà proprio la prossima settimana. Ho sentito parlare di una ventina di quintali di piselli che verranno venduti o preparati durante questi sette giorni della festa, ma ne rimangono poi anche per la vendita dopo, oppure li esaurite tutti? No, vi aggiorno che siamo già arrivati a questa cifra perché da ormai da 20 giorni una cinquantina di persone, questo è molto bello, fa parte del folklore della festa, ogni sera si trovano per sgranare i bisi, per prepararli, per poi venderli in cucina, parliamo del prodotto cotto. Comunque in questi giorni incominciamo a fare la nuova raccolta delle varietà tardive e che saranno possibili, cioè che sarà possibile acquistare durante la festa, i giorni della festa. Ecco, la festa allora entriamo nel termine della festa dal 22 al 27 di maggio, quindi proprio da questa settimana, a Baone. Sì. A Baone, nella bellissima piazza, a Baone abbiamo una bella piazza alberata che si addice molto a questa tipologia di feste, veramente è un momento il cliente, il turista che viene può assaporare i bisi all'ombra dei freschi tigli che ci sono nella piazza, è comunque immerso in una cornice di folklore, di intrattenimenti, di un mercato dell'artigianato, mercato locale e della vendita appunto del prodotto fresco, in particolare dei bisi. Ecco, il clou sarà come di consueto la domenica, dove ci sarà però una cosa particolare, il campionato di sgranatura dei bisi. Eh sì, da due o tre anni abbiamo inventato questa bella faccenda, questo bel gioco che è la gara di sgranatura dei bisi. Nell'incredulità nostra, il primo anno abbiamo assistito veramente a una gara molto simpatica dedicata ai ragazzi in particolare, ma piuttosto che ai genitori, ma piuttosto che agli anziani che a turno volevano partecipare a questa gara di natura. Per cui insomma è un momento di festa veramente in tutti i sensi. Noi vogliamo chiamarla proprio festa e non sagra, ma festa dei bisi. Benissimo, quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori, se qualcuno vuole fare un viaggio sui Colli Euganei nel prossimo weekend o si trova a passare in quelle zone, può tenere in considerazione una visita alla scoperta di Baone e di quelle bellissime zone, ai piedi del Monte Cecilia per esempio, dove si può fare un'escursione a piedi e visitare e andare a conoscere la festa dei bisi e questo prodotto tipico del Veneto. C'è un sito internet dove si può avere informazioni? C'è un sito internet www.festa.festadibisi.it. Benissimo, grazie. Chiudiamo adesso la trasmissione con le consuete notizie, due notizie in particolare. Un progetto pilota di cui avevamo dato conto qualche mese fa sta cercando di rilanciare, a partire dal Veneto, la filiera vacca vitello italiana. Il progetto pilota si chiama Meat Bull ed è reso possibile grazie alla collaborazione dell'Associazione Italiana Allevatori con l'Associazione Regionale degli Allevatori Veneti, ARAV, la Regione Veneto, l'Università di Padova e i consorzi di produttori Unicarve e Azove. Sono già state coinvolte 150 stalle da latte e da carne e i primi 800 capi sono già nati. L'obiettivo è arrivare a fine novembre a circa 3.000 meticci di Frisona e razza blu belga, mentre in una seconda fase dovrebbe essere coinvolta anche la razza piemontese. Entrando nei dettagli, in termini più tecnici, il progetto ottimizza la rimonta interna delle stalle da latte con il seme sessato. In questo modo, spiega il presidente di ARAV, Floriano De Franceschi, sostituiamo le nascite di vitelli maschi dalle razze da latte, che non hanno alcun ritorno in chiave economica, con capi meticci da carne di valore commerciale nettamente più alto, in modo da avere un prodotto al 100% italiano. In termini sempre economici, il ritorno è di circa 300 euro per animale allevato. Non cambiamo decisamente argomento perché rimaniamo un po' nel tema. Veneto Agricoltura, ente gestore del patrimonio forestale regionale, ha aperto alcuni bandi per la concessione in uso di diversi comprensori di pascoli situati nelle province di Belluno e Verona, idonei al pascolo soprattutto di ovini e bovini. Vi possono avere informazioni presso il centro forestale di Pian del Cansiglio, a Sperte di Farra di Alpago. Diamo anche il telefono 0438 581 757. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.